Surreal to music. Sto sulle melodie notte, flow si manca, cuore tornando, now, oh my god. Vorrei tra le rose di questo letto, piumato perfetto, di te che scaderesti di letto, mondo perfetto, letto di notte, e sì, calore, ore rotte, bombe forte, solo su una pioggia di fiori su mia fabbra, questa è anima e ansia, mare, ritorno di Abraham Lincoln, legge prescritta contro un campione di uno stato già vinto. Lirica boss, lirica boss, ascolto, dice tutto, detto tutto, figlio di un farabutto, che da squalo si è mangiato tutto e tutto, al figlio letto perfetto canto, ripiglio di letto, sto sul letto di notte, flow si manca, cuore tornando now, oh my god, vorrei tra le rose di questo letto, primato perfetto di te che scaderesti di letto, un mondo perfetto, letto di notte, calore, ore, rose, bombe, forte, forte, forte, sono su una pioggia di fiori sulle mie labbra, questa è anima e a sgabare, ora che dico che tornerà, solo questo è stato un farabutto che si è mangiato tutto, l'indica boss, l'indica boss, ascolto, dice tutto, ho detto tutto, il mio quartiere è lutto, fino di un farabutto, che da squalo si è mangiato tutto, e tutto al figlio letto perfetto, canto, ripiglio di letto, sto sull'andando di notte, forse manca un cuore tornando, tra le rose di questo letto piumato perfetto, te di te che scalderesti di letto, mondo perfetto, letto di notte, calore, ore rotte, bombe forte, sono sulla pioggia di fiori sulle mie fabbra, questa è anima e ansia, lirica boss, lirica boss, ascolto, dice tutto, detto tutto, figlio di un farabutto che da squalo si è mangiato tutto, e tutto il figlio letto perfetto, canto, ripiglio di letto, sto sull'andando di notte, flow si manca, un cuore tornando, now, oh my god, vorrei tra le rose di questo letto piumato perfetto di te, che scalderesti di letto, mondo perfetto, letto di notte, calore, ore rotte, bombe forte, sono su una pioggia di fiori sulle mie fratelle, questa è anima, è a sgabare, è a sgabare, è a sgabare, lirica boss, lirica boss, ascolto, dice tutto, detto tutto, il quartiere è lutto, figlio di un farabutto, che da squalo si è mangiato, tatuato, tutto, tutto, tutto, figlio è perfetto, canto, ripiglio di letto, sto sull'andando di notte, forse manca un cuore tornato, now, oh my god, vorrei tra le rose di questo letto piumato perfetto di te, che scaderesti di letto, un mondo perfetto, letto di notte, sì, calore, ore rotte, bombe, e che cazzo ce ne fotte.